Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Quando ho iniziato a dire alle persone che conosco che avrei fatto un programma radiofonico sulla gente che cambia vita, la reazione più frequente è stata: ma dai, ne stavamo parlando proprio l'altra sera. Perché in effetti la discussione, il dibattito sul cambiare vita è frequente, si ripropone negli anni, nei mesi, nelle settimane e funziona più o meno sempre allo stesso modo. C'è quello che dice: oh ragazzi, io adesso mollo tutto e me ne vado, non voglio sentire. E gli altri cominciano a rilanciare. C'è quello che c'ha già l'idea, che dice: sì sì, mi sto ristrutturando una casa in campagna, un giorno di questi vedete me ne vado. Quello che c'ha un'idea geniale per lavorare di meno e guadagnare molto di più. Quello che invece c'ha proprio un posto dove se vai lì con 300 euro al mese fai la vita da pascià. E c'è tutto questo esplodere di idee, fantasie, progetti, storie meravigliose, e poi finisce tutto e ognuno torna alla sua normalità, torna alla sua vita, torna alla sua routine, come se tutta questa discussione fosse solo un modo per sopportare meglio la normalità, la vita di tutti i giorni, quasi un rito, una cosa catartica. Solo che poi ogni tanto incontri uno che l'ha fatto veramente, che ha cambiato vita, e lì cominci a farti un po' di domande, a dire: vabbè, ma allora si può fare davvero? Cominci a dire: perché lui l'ha fatto e io non l'ho fatto? Cominci a dire: vabbè, ma l'ha fatto, ma magari ha avuto un colpo di fortuna. Insomma, cominci a farti una serie di domande alle quali non ci sono risposte. Io queste risposte le vorrei cercare, e le cercherò venendo qui tutti i giorni, per tutta l'estate, dalle 16 alle 16.30, e le cercherò parlando con gente che ha cambiato vita, con gente che ci sta provando, e con voi, se vi va e se volete. Questa è Radio 24, sono le 16:08, io mi chiamo Achille Corea e questa è la prima puntata di Giro di Vita. Allora, cominciate a segnarvi questo numero che magari molti di voi conoscono già bene: 800 24 00 24. Se per caso mentre ci ascoltate state su internet, avete un po' di finestre aperte e una di queste finestre è Facebook, cercate Giro di Vita, è la nostra pagina e potete cliccare su mi piace e mettervi in contatto in questo modo con voi, perché io vorrei sentirvi. Io e Fabrizio Intonti, che è una presenza silenziosa ma costante in questo programma, vorremmo sentirvi per non trasformare questo programma in una di quelle discussioni di cui parlavamo prima. Noi ogni giorno verremo qui e vi proporremo una tentazione, una persona che ha fatto una cosa di cui tutti parlano senza poi farla. Ad esempio, oggi vi proporremo la tentazione legata al viaggiare. A tutti piace viaggiare, a tutti noi, però dedichiamo al viaggiare pochissimo tempo. In realtà passiamo nello stesso posto la maggior parte dell'anno e poi magari, se uno può, una settimana, tre settimane all'anno viaggia. E allora lì ti viene la tentazione: perché non si può viaggiare sempre? Perché non si può vivere viaggiando con un lavoro che ti permetta di spostarti continuamente andando a vedere nuovi posti? Questa è la tentazione di oggi. Su Oggi vorrei sentirvi, su questo, su 800 24 00 24. Se vivete lavorando e viaggiando, se ci state pensando, se ci avete provato, chiamatemi. Io intanto vi faccio sentire una persona che rappresenta la tentazione di oggi. Vai Fra, benvenuta. Ciao, grazie. Allora, vai Fra Melchiori, senti, parto da una domanda che non c'entra niente, proprio senza nessuna malizia. Io mi chiamo Achille da 35 anni e sono 35 anni che la gente fa battute sul mio nome. Che nome è vai Fra? Io non l'avevo mai sentito. Beh, vai Fra, un nome viene praticamente dalla fantasia di mio babbo. Avevo entrambe le nonne che si chiamavano Afra e lui era rimasto un po' a corto di idee per darmi il nome. Allora ha detto: vabbè, vai, suona bene e via. Praticamente in breve è così. Ecco, nome inventato per una ragazza, sì, che invece sul suo blog, che è vaifra.blogspot.com, sì, si autodefinisce una ragazza normalissima. Una ragazza normalissima che però ha una pagina su Facebook con 1300 contatti, che non è normalissimo. Perché? Sì. Perché 1300 persone ti likeano, come dicono quelli di internet, su Facebook? Facebook. Non lo so, probabilmente perché il nome che ho dato al mio blog è un nome azzeccato, cioè si chiama Cambio Vita, di conseguenza vedo tanta gente che entra perché ha messo nei motori di ricerca proprio le parole Cambio Vita, Cambiare Vita. Ma tu come, tu l'hai cambiata la vita? Sì, sì, sì, io 5 anni fa ho dato una bella svolta radicale, proprio completa. Cosa facevi prima? Ma prima lavoravo in una piccola azienda nel paese dove abitavo, Imola, e niente, avevo il classico lavoro, bello, mi piaceva, stavo benissimo lì, però cioè, sai, non ero contenta. Classico posto fisso, vicino a casa, andavo d'accordissimo con i colleghi e col capo, vacanze a Natale ad agosto, però mi mancava qualcosa, dicevo cioè no, non è possibile vivere tutta una vita così aspettando le ferie per poter viaggiare un po'. Ma quindi è quello il problema, era il troppi pochi viaggi, che poi è una cosa normale, adesso tutti sentiranno di le ferie, vacanze a Ferragosto, è quello che fanno tutti fondamentalmente, a te non bastava. No, non mi bastava, e poi vabbè c'erano anche altre cose, cioè non mi piaceva proprio lo stile di vita, tutte le mattine sveglia alla stessa ora, andare nello stesso posto, fare le stesse cose con le stesse persone, anche se mi piacevano, però dicevo no, cioè ci vuole qualcosa di un po' più stimolante. E quindi niente, dopo tanti anni di riflessioni, false partenze, che dicevo vabbè adesso basta, me ne vado, però praticamente continuavo sempre a raccontarmi delle gran scuse. Cioè, alla fine non lo sapevo mai. Cos'è che ti ha fatto scattare la voglia di farlo veramente? Ma così, d'un colpo, cioè proprio è stata una cosa improvvisa, ho detto vabbè adesso io do le dimissioni. Dove vado non lo so, fare cosa non lo so, ma quando sarò disoccupata senza lavoro con un mutuo da pagare qualcosa lo farò. Ah così, proprio il buttarsi nel buio, cioè buttarsi in acqua dicendo o imparo a nuotare oppure annego. Esatto, fate vabbè, così. Mi senti, dimmi subito che cosa hai fatto dopo, perché io già c'ho l'ansia io per te, per questo licenze, queste dimissioni avventate. Cosa hai fatto dopo? Ma guarda, devo dire, ho avuto un grosso colpo di fortuna, perché durante il periodo delle dimissioni, era inizio estate, ho fatto un weekend in barca con degli amici, come avevo già fatto qualche altra volta, e nel corso di questo weekend abbiamo conosciuto uno skipper di un'altra barca, e lui mi ha fatto la classica domanda, mi ha detto ma tu cosa fai? Io ho detto guarda, io fino al 15 settembre lavoro, faccio un'impiegata, e dal 16 settembre non lo so, eravamo a giugno. E lui mi ha detto ma perché non provi a lavorare in barca? E che la mia risposta è stata ma io le barche non so neanche cosa siano, sono quelle cose che galleggiano, ma non ne ho idea, quindi mi sembra. Ma scusa, quindi tu ti sei, cioè cosa sei andato a fare in barca? Perché non vieni a lavorare in barca? Io personalmente non so nemmeno che cosa voglia dire. Che lavoro fai in barca? Ma io adesso faccio la hostess in barca. Cioè? Cioè vuol dire che lavoro sulle barche, non sono io lo skipper, non sono il comandante, però sono lì di aiuto e di appoggio, nel senso i miei compiti principali sono cucinare, tenere un po' pulito, eccetera. E poi c'è tutto contorno, che alla fine è la parte più bella. Cioè, i clienti vengono in vacanza, noleggiano la barca e tu li devi accompagnare, consigliare, guidare. Senti, dimmi una cosa, perché io, come penso la maggior parte delle persone che ci ascoltano, siamo abituati, io sono e noi siamo abituati a un mercato del lavoro che funziona così. Tu vai da uno e gli dici mi fai fare questo lavoro perché l'ho già fatto dall'altra parte. Tu come hai detto a questi fatemi lavorare in barca se non ci avevi mai lavorato? Io quando quel tipo là mi ha dato l'idea ho iniziato a cercare un pochino su internet a vedere che cos'era esattamente una hostess in barca e poi ho messo un annuncio su un sito del settore, ci ho scritto, cioè testuali parole, ci ho scritto io non so fare niente, non ho esperienza, mi offro come hostess alla pari per il mese di agosto. Senti, io sto pensando a tutti quelli che scrivono 7 pagine di curriculum e non li chiamano mai, dimmi almeno una cosa, ti hanno pagato da subito? Io mi ero offerta alla pari. Sì. E alla fine mi hanno dato, diciamo, una bella mancia. Ok, beh, dimmi una cosa, giornata tipo di vai fra, non so, in che zona fai tu la hostess sulle barche? Dipende, diciamo che faccio un part-time verticale nell'anno, nel senso che d'estate sto qui in Mediterraneo ed inverno invece migro, vado ai Caraibi. Beh, giornata tipo di vai fra ai Caraibi. Ah, i Caraibi, dipende se sono in charter o se non sono in charter, cioè se non sono in charter sono in vacanza. Quindi, vabbè, no, la giornata tipo quando lavori, non... Quando lavoro, beh, mi sveglio la mattina, preparo la colazione per gli ospiti in barca, dopodiché una volta fatta colazione in genere si parte per la navigazione prevista nella giornata, durante la navigazione do assistenza allo skipper se ne ha bisogno, quindi navigazione, poi devo sempre stare attenta agli ospiti, c'è quello che ha fame, c'è quello che ha sete, c'è quello che vuole di qua, quello che vuole di là. E passa così, e diciamo. Cioè, si corre dietro, vabbè, si corre in barca, si corre dietro alle esigenze degli ospiti. Quante ore di lavoro? Dimmelo, quante ore di lavoro al giorno? praticamente da quando apro gli occhi alla mattina a quando li chiudo la sera. Già questo. Senti, devo dire una cosa, io e Fabrizio Intonti vi cerchiamo, sì. Cerchiamo le persone che hanno cambiato vita. Ovviamente lo facciamo davanti a due computer in una redazione romana e diciamo, sì. Dai, ma non è possibile che sia tutto così, ci sarà un qualcosa che non va, non è possibile. E per saperlo ti facciamo sentire una cosa e poi la commentiamo insieme a te. Un giorno ho detto, basta, guarda, mi compro una barca e mi faccio il giro del mondo e navigo da solo, ecco. Feci il navigatore solitario, giorno e notte, fra cielo e mare, mare e cielo, in questa natura, solo, nell'immensità del mare, in assoluta meditazione, a contatto della natura più pura, e allora che capisci quanto sei stronzo a compiere queste imprese che non servono a un cazzo. Vai fra, sì. Senti, noi abbiamo detto ci serve uno autorevole che ci faccia un po' di controcanto. E questo era Alberto Sordi da un film del 77 dal titolo I Nuovi Mostri. Già nel sì. 77 c'era il mito della barca e già sì. c'era l'ironia sul mito della barca. Sì. Tu hai mai pensato in mezzo al mare, lontano da tutti, lontano dalla tua città? Ma io qua che ci faccio? In mezzo al mare? No, assolutamente, è quando mi trovo in mezzo alla civiltà che dico, ma io qua che ci faccio? Quindi non ti sei mai pentita? No, mai, assolutamente. Lo rifaresti, sì? E lo consiglieresti? Sì, io lo rifarei subito, anzi, peccato non averci pensato prima, però va bene, va benissimo così, sono arrivata per tempo. Lo consiglierei, sì, sicuramente. Cioè, senti, dipende, non per tutti può andare bene una cosa del genere, cioè ovviamente ognuno ha il suo carattere. Senti, quindi, a questo proposito, noi abbiamo, cioè cominciamo oggi, quindi lo spiego a te ma lo spiego anche agli ascoltatori, vorremmo con ognuno degli ospiti che rappresenta la nostra tentazione compilare un manualino, un quadernino con le cose da portarsi dietro e le cose da abbandonare quando si cambia vita. La valigia e la zavorra. Allora, questo è il nome della rubrichetta, la valigia e la zavorra, il nostro quadernino. In realtà è un foglio di Word sul computer, però dire quadernino fa più poetico. Vai Fra, che cosa sì. si deve portare uno secondo te quando cambia vita? Tu cosa ti sei portata? Io mi sono portata pochissime cose, mi sono portata due cose più importanti che sono sempre con me, sono la foto della nonna e un ciondolino Maori che mi ha regalato un mio caro amico, e quello ce l'ho sempre addosso. Quindi niente di pratico, è solo diciamo sentimenti. E sì. invece cosa bisogna buttare? Qual è la zavorra da buttare? La zavorra, beh, tanti labirinti mentali inutili. Che non servono a niente, cioè alla fine ci sono tante cose che uno pensa sempre che siano importantissime, poi nel momento in cui ti mancano, che sei là in mezzo all'oceano per dire ti mancano eccetera, dici vabbè, ma vivo poi bene lo stesso, cioè lo stesso, non mi servono a niente. Va bene, vai Fra, io ti ringrazio, penso che tu abbia tentato abbastanza le persone che ci ascoltano, che ti cercheranno sicuramente su Facebook alla pagina Cambio Vita, che è anche il titolo di un libro che tu hai scritto per raccontare la tua storia. Grazie sì. Fra, ecco, l'ho sbagliato alla fine. Vai Fra, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. 800 24 00 24, se anche voi avete provato o ci siete riusciti a vivere viaggiando per lavoro, fatecelo sapere, o al telefono 800 24 00 24, o su Facebook alla nostra pagina che si chiama appunto Giro di Vita. Io quando sento queste storie, queste tentazioni, penso sempre che non so se io ce la potrei mai fare, e cerco sempre qualcuno che mi confermi questa cosa, qualcuno che mi dica se si può fare magari in maniera un po' meno estrema, qualcuno che mi risponde insomma alla domanda, e se lo facessi io? E se lo facessi io? Ed è per questo che io mi attacco sempre al telefono e chiamo delle persone che se ne intendano e che mi dicano, guarda, si può fare, non si può fare. Per questo, dopo questa bella storia, questa bella tentazione che abbiamo avuto, io ho chiamato al telefono Marilena Dalla Patti, che è direttore risorse umane e organizzazione della Valtour. Pronto? Pronto? Buongiorno Achille, come stai? Bene, dopo questa tentazione di Vaifra, un po' più, diciamo, dubbioso e tentennante. E tu hai sentito, ci diamo del tu perché so che sei molto giovane, nonostante il titolo importante. Assolutamente sì. E poi in Valtour sai che l'informalità è importantissima. È per proibito dare, i nostri ospiti. È proibito dare del lei. E... dipende, sì. Se vogliono del lei possiamo anche darglielo. L'abilità sta proprio nel capire quando dare del tu e quando dare nel lei. Allora, Vaifra l'hai sentita, cioè c'è tanta gente che vorrebbe vivere viaggiando, vivere spostandosi nei posti che per gli altri sono posti esotici, luoghi di vacanza. Ecco, la prima cosa che io mi chiedo e ti chiedo, questi lavori di solito uno pensa che debba cominciare a farli da giovane, mentre invece ad esempio Vaifra ha cominciato a 34 anni. Se io, che ho 35 anni, ma magari anche uno di 40, di 50 anni, dicesse voglio cambiare e voglio cominciare a lavorare dove gli altri vanno in vacanza, in quei posti bellissimi dove c'è sempre il mare, il sole, eccetera, eccetera, lo può fare secondo te? Sicuramente sì, perché la fortuna dei villaggi, dei village resort, è proprio quella di avere la possibilità di offrire un insieme di lavori alle persone che decidono di cambiare vita oppure che decidono anche di fare questa esperienza per un po' di tempo, e quindi a seconda della professionalità e anche dell'età delle persone ci sono mansioni più o meno adatte ovviamente a ciascuna esigenza. Poi, come ti dicevo, molti iniziano per gioco, decidono di passare 2 o 3 mesi a fare questo lavoro e alla fine se ne innamorano e decidono veramente di farlo diventare il lavoro della loro vita. Quindi sicuramente massima possibilità di costruirsi da soli il proprio futuro. Ma e perché no anche di crescere in azienda. Ma si può fare veramente spostandosi via via in vari posti, o bene o male uno va dove lo mandano e magari rimane nello stesso posto sempre? I nostri ragazzi e comunque tutto il nostro personale non sta nello stesso posto più di 6 mesi di solito, a meno che non ci sia la volontà della persona oppure un'esigenza specifica. Quindi noi facciamo uno delle leve fondamentali appunto del nostro successo, quella di far viaggiare le persone, dargli la possibilità di vedere dei nuovi posti, e quindi sicuramente viaggiare e anche tanto insieme a Valtour. E senti, dimmi l'ultima cosa, ma poi uno che viene a fare questi lavori se lo gode un po' il posto, cioè si ha tempo un po' di vederlo, di conoscere, o magari finisce e diventa un posto di lavoro come tutti gli altri e magari uno alla fine non gli toglie quell'esotismo che c'è di solito? Sicuramente si lavora e si lavora anche tanto, però la fortuna è quella di fare un lavoro a contatto con gli ospiti, e io dico sempre che non si fanno stare bene gli ospiti se i ragazzi non stanno bene, quindi stare bene è fondamentale, e abbiamo la fortuna di riuscire a garantire a tutte le nostre risorse un benessere che va dalle piccole cose, dal poter fare il bagno se sei in una località esotica e riuscire a goderti la giornata, perché per fortuna questi ragazzi più delle volte lavorano facendo un giro in canoa oppure una partita tennis con gli ospiti. Però quindi... dici sempre ragazzi, io vorrei venirci anche se non sono più tanto ragazzo. Vabbè, ci proveranno secondo me. Ti ringrazio Marilena per questo intervento, grazie per essere stata la prima puntata di Giro di Vita. Bene, e noi andiamo avanti. Io voglio sentire qualcuno di voi. 800 24 00 24. Chi ho? Giulia? Mi confermate? Sì, pronto? Eccomi. Ecco Giulia, tu l'hai fatto, cioè l'avevi fatta questa scelta di lavorare viaggiando e poi a un certo punto hai smesso, è vero? Sì, perché io cambio vita in maniera quasi sistematica ogni 3-5 anni. Quella che vi racconto oggi in realtà è stato il mio primo giro di vita, 20 anni, adesso ne ho appena compiuti 34, ne ho già cambiato un altro paio di vite. Vabbè, allora puoi telefonarci ogni settimana, sei l'ascoltatrice sì. Perfetta. Dici questo giro di vita legato a lavorare viaggiando. Certo, quando avevo 20 anni ero già destinata a frequentare l'università americana, avevo fatto tutti i test del caso e poi in un momento di ribellione giovanile ho mandato un curriculum a una compagnia aerea e sono stata scelta quasi immediatamente. Nel giro di un mese e mezzo ero in linea e ho iniziato a lavorare come assistente di volo. E perché? Cioè, quanto l'hai fatto, scusa, l'assistente di volo? Io alla fine ho lavorato per 3 anni e mezzo, quasi 4. Allora, la domanda che io ho sempre avuto riguardo a voi è: ma uno che fa quel lavoro lì, poi i posti in cui va per lavoro, li vede o vede l'albergo, tipo George Clooney nel film Tra le nuvole, vede no, l'albergo, l'aeroporto e basta? Assolutamente è un meraviglioso lavoro, perché ti consente di vivere i posti fino in fondo e assolutamente lontani da quella che è la visione del turista. Sostanzialmente siamo dei turni mensili che vengono strutturati dall'ufficio turni in maniera diversa mese per mese, quindi le rotte cambiano continuamente e anche gli equipaggi con cui si lavora, quindi non si ha nemmeno l'ossessione di lavorare sempre con gli stessi capi, e ci si può fermare da quella che viene chiamata la minimum rest, ovvero una notte, fino addirittura 7, 8, 9 notti. Quindi ho passato moltissimo tempo in Giappone, ho passato delle settimane intere alle Maldive, alle Mauritius, ai Caraibi. Giulia, ma scusa, perché hai smesso allora? Ho smesso perché poi questa instabilità, che inizialmente è euforizzante perché ovviamente è qualcosa di nuovo che rompe la routine, a lungo andare può diventare eventualmente un'arma a doppio taglio, soprattutto per una donna, perché quando si comincia a pensare di creare una famiglia, e nel mio caso addirittura con un altro volatile perché mio marito è un comandante. Ah vabbè, questo è un classico. Esatto, secondo la classica leggenda, essere in due insomma crea una gestione familiare piuttosto complicata, e quindi ho deciso di smettere per questo. Ti manca? Sì o no? Risposta secca. A volte sì, guarda, io sono realizzata nel lavoro che sto svolgendo adesso, però devo dire che qualche volta quelle atmosfere così leggere mi mancano. Ti mancano. Sì. Grazie Giulia, noi dobbiamo chiudere, proprio l'ultimissima cosa che vi devo dire, vi devo lanciare una grande domanda. Le grandi domande della seconda vita. Allora, io vi invito ancora a contattarci sulla nostra pagina di Facebook, che è Giro di Vita, perché noi ogni giorno vi lanciamo una tentazione, ma ogni settimana vi facciamo una grande domanda, non della vita, ma della seconda vita, visto che è gente che la cambia. La domanda di questa settimana è: quali sono le cose che vi fanno venire voglia di cambiare vita? Quali sono le cose dalle quali vorreste fuggire? Ditecele o su Facebook o a girodivita@radio24.it. Le leggeremo nei prossimi giorni. Siamo in chiusura, la prima puntata finisce qui. Io volevo ringraziare tutti voi, anche quelli che hanno telefonato e non abbiamo fatto in tempo a sentire. Saluto Valerio Rocchetti, che si è occupato della regia, Fabrizio Intonti, che mi accompagna in questo viaggio. Ringrazio tutti voi che siete stati con noi e magari ci sarete nei prossimi giorni. Io sono Achille Corea, questo era Giro di Vita. A domani. Email girodivita@radio24.it. Segreteria telefonica 800 28 11 11.